occhiali da sole per alterare la luce che c'è sulla pelle. Un poco di trucco a parlare per noi che abbiamo sempre paura e preferiamo nasconderci, se non per pochi momenti un giorno in cui siamo eroi. Dal cuore nasce un arcobaleno e tocca a noi farlo uscire dalla esegna. Guardi, sono senza filtri, ti accorgi che comunque sia io sono qui. E butto fuori quel che ho. Comunque sia noi siamo qui. Persone strane che a prima botta ti sembra che ti stiano addosso perché sei speciale ed invece è frutto della diplomazia, semplicemente falsità. Le delusioni che fanno più male son quelle che nel trucco, forse per questo che sta lì.